Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, siamo di nuovo insieme, benvenuti, non perdo tempo e vi faccio subito ascoltare i temi del giorno. La tua pelle soffre il freddo? Impara con noi a proteggerla. Un esame visto da vicino. Ecografia in gravidanza. Ti senti tutto rotto? Sarà colpa della postura? Naso paonazzo, labbra screpolate che bruciano, pelle del viso che tira, occhi che lacrimano, tutti indizi o meglio sintomi che ci portano dritti dritti al tema di oggi. Infatti oggi parliamo di pelle al freddo. Come reagisce la vostra? Si occuperà della nostra pelle insieme a tanti esperti il dottor Franco Castelli, dermatologo presso l'ospedale Kölliker di Torino, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottor Castelli, anche se ci imbacucchiamo, sciarpa, cappello, guanti che poi si perdono sempre, anche il freddo insomma si insinua e lascia il segno sulla nostra pelle, che si arrossa e sembra anche diventare più secca e sottile. Beh, diventa più secca e sottile perché durante i mesi invernali la pelle rallenta le proprie attività, proprio come fanno le piante o gli animali che vanno in letargo. Questo è principalmente dovuto ad un fenomeno di vasocostrizione legato al freddo. In pratica, per trattenere il calore del corpo, il nostro organismo contrae il calibro dei vasi sanguigni, sì, e la pelle diventa pallida, fredda e non disperde calore all'esterno. Quindi c'è meno nutrimento. L'altra faccia infatti della medaglia di questo meccanismo di vasocostrizione è il rallentato arrivo di sostanze nutrienti. La pelle non riesce più a produrre grassi in grado di trattenere l'acqua all'interno, da qui la presenza di cute secca, disidratata, tipica dei mesi invernali. A differenza invece di quella nei mesi estivi. Sì, in cui l'umidità relativa esterna facilita anche l'idratazione dell'acqua, della cute stessa. Senta, dottor Castelli, ma ci sono anche dei vantaggi e noi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, ma leggo subito un messaggio che ci arriva da Antonella da Belluno, che ci raggiunge con una rapidità da record, e ci scrive: la mia pelle sopporta bene il freddo, ma va in tilt per gli sbalzi repentini di temperatura. Devo evitare di entrare e uscire da luoghi riscaldati, altrimenti divento rossa come un peperone. Dottor Castelli, Antonella è particolarmente sensibile, però credo che possiamo fare anche tesoro della sua esperienza. Ma Antonella ha sicuramente quel tipo di pelle che chiamiamo sensibile, cioè un fototipo probabilmente chiaro, che si arrossa facilmente agli sbalzi termici, dopo emozioni, con l'esposizione al sole o addirittura dopo l'assunzione di determinati alimenti. Quella di Antonella è una situazione ereditaria, geneticamente determinata, che spesso sfocia in quel quadro clinico noto come cuprosa o nella sua forma evolutiva la rosacea del viso. È possibile oggi intervenire rallentando queste fasi evolutive con farmaci topici e sistemici e anche con dei trattamenti fisici, estetici, con dei laser. Quindi buone notizie. Intanto voi da casa raccontateci che effetto produce sulla vostra pelle il freddo. Insieme al dottor Castelli, individuati un po' i problemi, proveremo, se non proprio a trovare una soluzione, di qualcosa da andarci vicino, dottor Castelli. Potremmo suggerire quasi un rimedio, no? Senza sbilanciarci troppo. Qualche consiglio lo possiamo dare. Ma a lei che effetto fa il freddo sulla pelle? Ma io ho un fototipo mediterraneo, per cui non ho grossi problemi con gli sbalzi termici. Però devo dire che il problema può investire tutta la popolazione, non solo quelli che hanno il fototipo della signorina di prima. E poi ciascuno di noi ha proprio il punto debole, no? La pelle del viso, alcuni la pelle delle mani, il contorno labbra, i piedi che diventano particolarmente freddi. Parleremo anche di piedi, dei famosi geloni. Dottor Castelli, ci sono ancora? Ci sono, ma sui geloni occorre fare un discorso a parte, in quanto per i pazienti che ne sono colpiti esiste anche qui sicuramente una predisposizione familiare, ma anche il tipo di professione, nonché la presenza di umidità nell'ambiente che ne favoriscono la comparsa. Ne parleremo nel corso della trasmissione, restate con noi. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, parliamo di ecografia in gravidanza. Per il controllo di una gravidanza fisiologica sono previste 3 ecografie esenti da ticket: entro la 13ª settimana, tra la 19ª e la 23ª e tra la 28ª e la 32ª. Ma

malformazioni che sono più prettamente cutanee o per esempio anche nel caso del labbro leporino, di alcune malformazioni cardiache dove si può non solo vedere la tridimensione ma addirittura adesso esistono degli ecografi con la quarta dimensione che consente di vedere la valvola cardiaca come una, proprio come una valvola e anche che si muove in tempo reale. Quindi se noi vogliamo osservare delle malformazioni cardiache può essere molto utile guardarle in tre dimensioni. Ma ripeto, sono cose veramente molto specialistiche che si fanno in centri specializzati. Certo. Senta, professoressa, invece ogni mamma si sottopone ad una visita mensile durante la quale il ginecologo effettua una serie di controlli. Li ricordiamo rapidamente? Sì, ecco, questo è molto importante, veramente. È molto importante seguire adeguatamente la gravidanza con dei controlli di base che sono... Allora, quando il ginecologo vede una donna gravida, ogni volta le richiederà chiaramente alcune, se ha avuto disturbi, se per esempio non ha sentito bene i movimenti del bambino. Le cose che poi il ginecologo o la ginecologa controllano sono l'aumento di peso, perché è molto importante che sia costante, deve essere un aumento di peso, deve rientrare entro certi limiti, certo. In pratica diciamo non deve superare i 3 kg al mese, deve essere di almeno 1 kg al mese, questa è una generale norma. Poi si controlla la pressione, anche questo è fondamentale perché una delle patologie più gravi della gravidanza è la preeclampsia, quella che si chiamava gestosi una volta, e non da ultimo ma assolutamente fondamentale è anche controllare l'aumento del volume dell'utero con la visita proprio dall'esterno, sì. Controllare che l'utero sia rilasciato, che non ci siano contrazioni e controllare che il collo dell'utero non si modifichi in un modo tale per esempio da presupporre ci possa essere una minaccia d'aborto o di parto prematuro. Dopodiché esiste naturalmente anche la valutazione degli esami anatici, certo. Che viene fatta routinariamente. Che vengono fatti di routine. Va bene, allora siamo pronti, abbiamo raccolto tutte le informazioni necessarie, quindi auguri alla professoressa Cetin. Grazie. Auguri alle mamme in attesa. Grazie auguri professoressa, buona giornata. Arrivederci, grazie. Pronto soccorso. Vi ricordate la canzone di Nada, Ma che freddo fa? Ecco, noi oggi parliamo proprio degli effetti che ha sulla nostra pelle il freddo, specie di questi giorni. Tantissimi già i messaggi che arrivano al 349-238-6666. Ci chiama Carla da Modena. Buongiorno Carla. Buongiorno. Carla, che cosa io capita? Io in particolare le volevo parlare di mio figlio, un bambino di 6 anni, sì. Il quale all'inizio di questa stagione invernale, sì. Ha avuto comparsa una chiazza sulla guancia di colore più chiaro rispetto al colorito insomma del suo viso e con una superficie screpolata. Adesso, applicando la crema, questa screpolatura è andata via, ma il colore più chiaro è rimasto. Nei giorni scorsi poi ne è comparsa anche un'altra, più piccola. Sempre sulle guanciotte? Sempre sulla guancia. Sì. Questa qui era più, diciamo, sotto la zona perioculare. Sì. E quindi questa più piccola, sempre screpolata, però non di colore più chiaro. Che con una crema idratante a base di tea tree, insomma, è andata a posto. È migliorata, così, sì. Siccome lui ha avuto problemi di pitiriasi rosea di Gilbert, ci chiedevamo, insomma, che non si trattasse magari di quella in forma diversa, oppure... Lo chiediamo al dottor Castelli, Carla, stia lì. Dottor Castelli, allora, iniziamo subito dai bambini piccoli. Di solito le guance dei bambini al freddo si arrossano, danno quell'idea di salute, ma spesso i bambini poi si lamentano. Carla invece nota queste chiazzette leggermente più chiare e screpolate. Che cosa può essere? Ma probabilmente non c'entra nulla il freddo, quella situazione clinica che si verifica nel bambino piccolo, soprattutto dopo i 5-6 anni, prende il nome di pitiriasi, ma non è la pitiriasi di Gilbert che la signora prima diceva agitato, di aver avuto, sì. Esatto, ma si chiama pitiriasi alba ed è una situazione molto comune, molto frequente, di pelle secca, screpolata e bianca, cioè non abbronzata, che il bambino allergico o atopico, come si dice, sì. È portatore fino all'età dello sviluppo in genere. E poi passa? Poi passa, ma non prima. Si evidenzierà molto durante l'estate quando prenderà sole, perché non si abbronzerà in quell'area lì, e d'inverno invece diventerà molto secca. È corretto, come sta facendo la signora, un'idratazione continua. Andiamo a leggere un messaggio dei tanti che stanno arrivando, li leggeremo naturalmente nel corso della trasmissione. Non temete, ci scrive Massimo da Cremona: con il freddo la pelle delle mie mani si secca e si taglia, provocandomi delle vere ferite. Sono un uso delle creme grasse, potrebbe mancarmi qualche vitamina? Grazie, ci scrive Massimo. Dottor Castelli, dalle guance scendiamo alle mani, ma poi faremo delle fermate intermedie, delle deviazioni, ci faremo guidare dalle domande dei nostri ascoltatori. Sicuramente la pelle delle mani è un po' delicata e soprattutto in questo periodo tende ad arrossarsi, a screpolarsi, e nel caso di Massimo ci sono delle vere e proprie ferite. Che cosa capita e come proteggersi? Beh, innanzitutto occorrerebbe distinguere la pelle semplicemente screpolata delle mani dalla psoriasi delle mani, perché un taglio, una ragade sulla mano spesso fa pensare a questo quadro clinico, sì, che notoriamente d'inverno peggiora. Non è una mancanza di vitamine, no, non c'entra nulla. È molto utile in questi casi limitare ovviamente le detersioni, perché l'acqua, come noto, porta via quel film idrolipidico superficiale che è molto utile, soprattutto alle mani che sono esposte sia alle detersioni continue che alle basse temperature. Sì. L'altra cosa, soprattutto se si arriva alla ragade, è fare la cosiddetta medicazione in occlusione, cioè alla sera cospargere con creme, con la vaselina, la glicerina, anche creme molto grasse, tutta la superficie palmare, e tenere un guanto per qualche ora in modo da fare una medicazione cosiddetta in occlusione. Sì. Questo permette alla crema di penetrare meglio e anche più a lungo, e spesso non si formano le ragadi in questo modo. Ecco, questa è una bella indicazione, quindi facciamo questa sorta di impacchi. Sì, un impacco in pratica. Un impacco ora. bello tenuto lì per qualche ora o anche tutta la notte. Anche tutta la notte, certo. E, dottor Castelli, proviamo a capire quali malattie della pelle migliorano e quali invece peggiorano con il freddo? Migliorano generalmente tutte quelle dermatosi fotoindotte, cioè associate all'esposizione ai raggi ultravioletti, per cui il lupus cutaneo, la rosacea, anche se non sempre, sì, il cloasma, più genericamente tutte le ipercromie del viso, cioè le macchie. Le macchie migliorano? Beh, non peggiorano perlomeno. Anche le dermatiti da fotosensibilizzazione ovviamente migliorano. Per contro compaiono delle dermatosi tipiche da freddo, dicevamo prima dei congelamenti, i geloni, le orticarie, sì, da freddo. E altre poi si aggravano, come la psoriasi, la dermatite seborroica, l'acne, anche alcune dermatite allergiche, tanto per citarne qualcuna, in genere peggiorano durante la stagione invernale. Andiamo a Firenze, ci aspetta Marco. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Nulla, io vi ringraziavo e volevo fare una domanda al dottor Castelli. Sì. Riguardante mia moglie ha 34 anni e sì, da bambina diciamo ha sofferto un po' di questi geloni. E il problema è che negli ultimi anni, più che passi il tempo e soprattutto quest'anno, lei sta soffrendo ancora di più perché ha questi forti dolori alle mani. E quindi volevo sapere se c'era qualche possibilità di fuori di usare delle creme, ma non si risolve il problema, diciamo, di così, in questo modo. Creme, guanti, lei le tenga un po' le mani, Marco. Quello lo fa volentieri, lo fa tutte le sere. Va bene, bene, questo aiuta, scalda il cuore. Ma il dottor Castelli invece, più scientifico, che cosa ci dice? Oltre a tenersi mano nella mano, che mano nella mano è sicuramente la terapia migliore, guardi. Sì. Perché è veramente efficace, non esiste nulla. Un consiglio potrebbe essere quello di un continuo esercizio fisico, cioè muoverle continuamente per riattivare la circolazione. Nei casi più gravi, soprattutto quando c'è una sintomatologia acuta, per cui dolore, bruciore, con questa tonalità violacea che assumono caratteristicamente le estremità, anche terapie farmacologiche, il cortisone in questi casi è una terapia antinfiammatoria che in casi limitati e per brevi periodi può essere consigliata. Dal 57° congresso nazionale di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica che si è tenuto nei mesi scorsi a Napoli, è stata presentata una nuova tecnica di ringiovanimento cutaneo che sfrutta la crioconservazione delle cellule della pelle quando queste sono proprio ancora in buona salute, per poi riutilizzarle alla comparsa delle prime rughe. Per capirne di più, in linea con noi il professor Marco Klinger per spiegarci per capirne di per spiegarci bene questa tecnica, in linea con noi il professor Marco Kling, direttore della seconda scuola di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell'Università di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Professore, al Congresso Nazionale di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica che si è tenuto nei mesi scorsi a Napoli è stata presentata una tecnica di ringiovanimento cutaneo che sfrutta la crioconservazione delle cellule della pelle quando queste sono ancora in buona salute, diciamo così, per poi riutilizzarle alla comparsa delle prime rughe. Proprio vero. È così? Proprio vero, esatto. Ci spieghi esattamente come funziona, allora, cosa ne pensa? Allora, quello che si è preparata è la possibilità, Nicoletta, di utilizzare i fibroblasti, che sono di fatto le cellule che sono responsabili del sostegno e della produzione del collagene e quindi alla fin fine producono la compattezza della cute. Sì. La possibilità di estrarre questi fibroblasti in realtà è semplicissima, si tratta di fare un piccolo prelievo di cute dietro la regione dell'orecchio di 3 mm quadrati, quindi assolutamente invisibile, e da questo piccolo prelievo i laboratori appropriati, in particolare quello di San Marino, da cui è nata collaborando con noi specialisti questa ricerca, sono in grado di estrarre i fibroblasti che vengono a conservati al freddo, quindi da qui l'importanza del freddo, eccetera. Sì. Poi espansi nell'arco di 4 settimane, quindi espansi numericamente, per essere poi potenzialmente reimpiantati nella cute a 2 mm di profondità in modo di rinfoltire i fibroblasti presenti nel derma, quindi con questo dando un grande fenomeno di rivitalizzazione del derma. Quindi è proprio una procedura, come dire, utile e importante, ma non solo. Questo non è possibile solo 4 settimane dopo l'impianto, ma da quel piccolo prelievo di fibroblasti si possono produrre fibroblasti sostanzialmente per tutta la vita. Veramente. Che saranno utili non solo a diventare più belli, avere una pelle più bella insieme magari ad altre misture, ma invece anche magari nel caso di guarire da ulcero, guarire da piaghe. Cioè diventa una cosa veramente importante che sarà fondamentale. Quindi quando uno servono, ha la propria, Nicoletta, riserva, no? È una sorta di riserva. Esatto, è esatto. Pronta all'uso. Evidentemente se sono presi, quando questi fibroblasti sono, parliamo per esempio della donna, non tanto nei primi 20 o 30 anni di vita, ma comunque prima della menopausa. Perché è dimostrato che i fibroblasti prima della menopausa sono numericamente di più e più belli, più vitali. E per l'uomo? Noi abbiamo questa fortuna che adesso... No, perché non ho capito perché... Certamente vale anche per noi, però ci lasci pensare che noi non abbiamo menopausa e quindi siamo sani tutta la vita, non è vero. No. Anche per l'uomo in generale, se questo prelievo avviene prima della quarantina barra cinquantina, certamente sono più efficaci. Quindi va bene, è unisex questo consiglio, anche perché esatto, la menopausa è un periodo magnifico della vita. Esatto, no? Infatti. Professor... Però per i fibroblasti meglio prenderli prima. Meglio prima, va bene. Allora. Professore, quindi questa è una buona notizia perché come lei ci ha spiegato, esatto, è utile in diverse occasioni. Lei, esatto, mi ha detto, mi ha citato anche le ulcere, quindi esatto. Anche per chi però non vuole. Posso aggiungere una piccola ma cosa, deve. Nicoletta? È una cosa secondo me filosoficamente abbastanza importante, perché in realtà tutti i trattamenti moderni della pelle, la ristrutturazione della pelle, il modo di cercare di avere meno rughe, di invecchiare meglio, di avere una bella pelle da giovani, ormai hanno un tipo di andamento che è caratterizzato, a differenza dagli ultimi anni, da questo fenomeno, cioè si procede dal di dentro, vedi anche il discorso del grasso, dell'ipofilling, delle staminali, sì, fino ad arrivare a questa cosa importantissima dei fibroblasti, cioè in realtà si ristruttura la pelle dal di dentro e non più dal di fuori, come invece si è stati molto attenti questi anni qua. Sembra un atteggiamento superato, mentre la novità viene proprio dalla da parte della rigenerazione tessutale. Dal di dentro, è esatto, questo che fa la differenza. Esatto. Professor Kling, la ringrazio. Lei ci porta sempre delle buone notizie. Cerco di fare il possibile. Bene, continui così. Grazie e buona giornata. Buon lavoro, arrivederci. E noi torniamo ad occuparci della nostra pelle. O un po' stanca o infreddolita, andiamo a Roma, c'è Alessandro che ci aspetta. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare una domanda molto, molto semplice. Io, al contrario, l'inverno, avendo una pelle molto grassa, ho dei vantaggi molto, molto evidenti. Sì. Quindi non ho di questi arrossamenti, né cuperosi, nulla di qua. Però ho un problema io l'estate, nel senso che avendo una pelle molto grassa, purtroppo ho bisogno... ho bisogno di stare quasi sempre in acqua, perché purtroppo ecco questo grave problema. Volevo sapere se esistevano dei rimedi alla pelle troppo grassa. E quindi lei vorrebbe portarsi avanti, lei Alessandro con la sua domanda ci porti in estate, che devo dire che con questo freddo noi sogniamo. Dottor Castelli, una pelle grassa al freddo sta bene? Sta bene perché, come accennavamo prima, c'è una diminuzione delle secrezioni, dell'attività della ghiandola sebacea, per cui un po' di miglioramento sicuramente l'ascoltatore ce l'avrà d'inverno. Terapie efficaci ne esistono più o meno, nel senso che il farmaco più efficace è un derivato della vitamina A che si chiama isotretinoina. Questo farmaco è gravato da molti effetti collaterali, viene usato da noi specialisti per la cura dell'acne nodulocistica grave. Sì. Indubbiamente a bassi dosaggi diminuirebbe la secrezione sebacea dell'ascoltatore, però non so se ne valga la pena sinceramente. Certo. Insomma, tanto l'estate è ancora lontana e il nostro amico Alessandro da Roma si gode i vantaggi che il freddo gli procura avendo lui la pelle grassa. E intanto andiamo a Como, nella provincia di Como. Ad aspettarci c'è Mario. Buongiorno Mario. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere al signor Castelli, dottor Castelli, mia moglie con i primi freddi ha sempre il problema delle dita, delle mani. Sì. Gli diventano bianche le prime due falangi. Sì. E rimangono bianche per almeno una ventina di minuti finché non massaggiandole non riprendono il colore naturale. Certo. Ci sono dei rimedi? Qual è il problema? Grazie Mario. E anche un altro messaggio è abbastanza simile a quello che ci manda Mario. Un dito della mano, ci scrive un ascoltatore, Tano, che quando fa freddo si addormenta, diventa bianco per almeno 30 minuti, questo 2-3 volte al giorno. Il mio dottore non sa cosa fare. Dottor Castelli, lei invece ha qualcosa da dirci? Ma il quadro può rientrare in quello che dicevamo prima dei geloni, però bisogna escludere un altro tipo di patologia che si chiama fenomeno di Raynaud, che invece è sostenuto da un problema legato al sistema immunitario. In pratica si formano degli autoanticorpi che vanno a precipitare al freddo sulla parete dei capillari, creando questo colore bianco pallido delle mani con dolore, e in genere però è seguito poi da un arrossamento improvviso e duraturo. Ovviamente bisogna fare degli esami particolari, specialistici, per valutare lo stato del sistema immunitario. Perché potrebbe trattarsi anche di questa malattia. Sì. Mentre se fosse solamente un problema localizzato, e come ci ha descritto il nostro ascoltatore, bastano delle, non lo so, dei massaggi, si possono usare delle creme. L'esercizio fisico, come sempre, dicevamo prima, muoverle sempre molto. L'esercizio fisico. Sì. Dottor Castelli, alcuni messaggi arrivano dicendo: ma come faccio a capire se è dermatite allergica, dermatite seborroica? Allora cerchiamo di dare delle indicazioni ai nostri ascoltatori, perché abbiamo visto che le basse temperature qualche cosa modificano anche per chi soffre di dermatite. Dottor Castelli. Ma la dermatite seborroica classicamente colpisce il viso, in particolare la piega del naso, le sopracciglia, la zona di confine tra fronte e capelli. Sì, all'attaccatura. Esattamente, sostenuta anche da stress nervoso o comunque dalla produzione di testosterone. La dermatite allergica non interessa in genere solo il viso, perlomeno può colpire le palpebre e soprattutto le pieghe, magari le pieghe del gomito, del ginocchio, per cui già la fede è abbastanza diagnostica. Poi la dermatite seborroica raramente da prurito, migliora molto con l'esposizione agli ultravioletti ed è un po' una patologia di confine che ricorda un po' anche la psoriasi. Entrambe hanno, pur con patogenesi diversa, beneficio dall'esposizione agli ultravioletti. Quindi d'inverno, d'inverno come si comportano queste pelli? Beh, innanzitutto si arrossano e poi cominciano a squamare, anche se la sintomatologia è scarsa, cioè il paziente, a parte l'aspetto estetico fastidioso, non ha dei fastidi tipo prurito o altro. E inoltre, se è vero che in entrambi i casi gioca un certo ruolo lo stato emotivo, è noto che i periodi di maggior stress fisico e lavorativo spesso coincidono proprio con l'inverno. Giuseppe ci chiama da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Allora, quest'ultimo discorso sembra fatto apposta per me, nel senso che io ai primi freddi, sulla palpebra e sopra la palpebra fino al sopracciglio, si arrossa e desquama. Volevo capire se era una dermatite allergica, però il problema è che io sono andato anche dal dermatologo, ma mi ha dato gli antistaminici e poi ovviamente mi passa, però volevo capire da che cosa poteva derivare, ecco. Dottor Castelli, al telefono senza vederlo è difficile dare un'indicazione a Giuseppe, però forse la localizzazione precisa, la descrizione che Giuseppe ci fa del suo problema può dare un indizio, può essere un suggerimento, un indizio. Sì, una cosa molto semplice proprio per la localizzazione: se è interessata solo la palpebra superiore e in parte il sopracciglio, se ho capito bene, potrebbe non trattarsi di un fenomeno allergico ma di una forma di dermatite psoriasica o seborroica o di una psoriasi. Mentre se è interessata anche la palpebra inferiore, cioè sia la superiore che la inferiore, è più spesso un problema di tipo allergico. In questo secondo caso l'antistaminico sicuramente serve, però sarebbe più importante andare a vedere a che cosa il paziente è allergico. Quindi bisogna, e lì però una volta arrivati individuato alla causa, si riesce poi ad avere la giusta terapia, dottor Castelli. Esattamente. Fa freddo, che crema mi metto? Abbiamo in linea con noi la dottoressa Serri, che salutiamo. Buongiorno dottoressa. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Quale crema devo scegliere? Come posso proteggere meglio la mia pelle? Abbiamo capito un po' i meccanismi che il freddo provoca e quindi perché la nostra pelle diventa più secca, sembra più sottile, anche un pochino più pallidina. Ci sono vari tipi di pelle, lascia lei la parola per farci una sorta di specchietto. Pelle grassa, pelle secca, pelle un pochino matura. Che cosa si fa? Eh sì, le cellule della pelle vivono il freddo proprio come un insulto ecologico e purtroppo la pelle non può essere coperta come il resto del corpo, per cui la possiamo proteggere e coprire con le creme più adatte. Le creme aiutano la pelle proprio a difendersi da questo insulto e devono essere a base di burri e di oli vegetali, perché contengono dei fattori di protezione cellulare naturale che preservano dai danni e aiutano la pelle a subire meno. Per esempio burro di karité, cera jojoba, cere naturali, addizionati di sostanze a valenza antiradicalica, antiossidante, come gli estratti di tante piante e fiori. Anche tutti gli oli, quelli nobili vegetali, l'olio di sesamo, l'olio di girasole, l'olio di mandorle vanno molto bene. Addirittura io consiglio di tenere una boccettina di olio, per esempio olio di argan, che è un olio che viene dal Marocco, è veramente valido. Dove si trova? Si trova in farmacia, in erboristeria, si può trovare piuttosto facilmente al giorno d'oggi. Olio di rosa moscheta, chiamata anche rosa rubiginosa, che è naturalmente ricco di sostanze antiossidanti e di vitamina C. E di addizionare la propria crema con questo olio, cioè di fare una specie di integratore per la crema da mettere tanto più quanto più la pelle si secca. Le pelli più grasse invece hanno bisogno di oli ma che non siano comedogeni, quindi devono provare un pochino sulla loro pelle che cosa è meglio. Io suggerisco di non usare prodotti a base di vaselina e di petrolati, perché questi possono, oltre a non essere biodegradabili, e per me come presidente Schineco è importante sottolineare, bisogna dire che sono oli comedogeni. La vaselina quindi è un grasso comedogeno. Scusi, è che fanno venire i puntini neri. I punti neri e l'acne praticamente. Quindi sulla lunga alla vaselina. Non i petrolati, ai primi posti della formula. La formula si può leggere obbligatoria su tutte le confezioni. Se ai primi posti c'è petrolatum non va tanto bene. Se c'è altri tipi di lipidi, ovvero oli, il burro di karité però non si leggerà mai nella formula come burro di karité ma come butyrospermum parchi, perché è obbligatorio scrivere i nomi botanici. Senta, ma che difficoltà, in latino. Che difficoltà, dottoressa, meno male una volta che si impara a districarsi veramente anche divertente, è proprio divertente scegliere le creme e scegliere le creme più adatte e su misura per se stessi. Una pelle più grassa, per esempio, può prendere un gel di aloe, e l'aloe ha una grossa valenza anche protettrice, non diciamo non oleosa ma protettrice. In più, proprio sul palmo della mano si può aggiungere un po' di olio, miscelarlo al momento e metterlo sul viso, quindi ci si può creare una piccola emulsione fai da te su misura, legata proprio a quanto deve essere idratata e protetta la pelle. Tengo a sottolineare che i fattori di protezione solare proteggono dal sole sicuramente, dai raggi UVA che ci sono d'inverno, però, ma non proteggono dal freddo. Quindi, dottoressa Serri, con i suoi consigli potremmo prepararci un po' delle creme personalizzate. Esatto, tenendo un piccolo integratore, certo. L'integratore per le creme, un boccettino di olio che si trovano veramente in farmacia, in erboristeria, anche in profumeria, oli per il viso da aggiungere alla crema, tanto più quanto più fa freddo, quanto più la pelle secca. Tutte le donne, per esempio, sanno che la loro pelle cambia nel corso del mese, cioè è un po' più grassa, è un po' più esplosiva, è un po' più reattiva nel periodo che precede il ciclo mestruale e tende a essere più normalizzata dopo, per cui anche la pelle non va curata tutti i giorni proprio nello stesso modo. Così non ci annoiamo, si cambia mai. Dottoressa Nella Serri. Vita non ci si annoia mai. Dottoressa Serri, io la ringrazio per essere stata con noi. Proveremo allora, ricordiamo, olio di argan, mi stanno già scrivendo i messaggi, e olio di rosa moschetta, ho preso anche giusto. Olio di borragine, anche olio di borragine. Di enotera, ci sono tanti oli nobili che fanno veramente bene alla pelle. Grazie dottoressa Serri, buona giornata, buon olio. Grazie. Dottor Castelli, io la ringrazio per essere stato con noi. Lei li usa gli oli? Ma io no, però ho preso nota di cosa ha detto il professor Klinger, mi prenoto sicuramente per un prelievo di fibroblasti. Va bene. Sono ai 50, per cui... È la svolta. Ha sentito che... Esatto. Dottor Castelli, grazie per essere stato con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete comunque scriverci, perché tante telefonate non si è riuscite a passarle, quindi essere benessere@radio24.it, le manderemo al dottor Castelli, alla dottoressa Serri e al professor Klinger. Veloci veloci qui insieme per parlare di postura, un argomento che mi ha acceso in testa una lampadina, o meglio una canzone. Vi ricordate Jovanotti che cantava muoviti muoviti? A volte ci muoviamo davvero poco perché stiamo seduti ore e ore e ore davanti alla scrivania e non so come mai alla sera ci sentiamo stanchissimi, a pezzi, rotti, doloranti. Allora cerchiamo di capirne di più insieme al dottor Respizzi, medico dello sport e fisiatra del centro di riabilitazione dell'istituto ortopedico Isokinetic di Milano. Dottor Respizzi, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta. Allora, quando un paziente viene da lei e dice: dottore, mi sento sempre tutto rotto, voi chiamate in causa la postura, no? E allora è iniziato a dire: ma come sta seduto, che cosa fa, si muove poco? Allora io oggi, con il suo aiuto, dato che ormai stiamo diventando sempre più sedentari, abbiamo capito che questo è un po' contro la nostra natura, ma gioco forza ci tocca, allora vorrei che lei ci aiutasse a capire almeno gli errori, no, più frequenti. Allora, se lei mi accompagna, ci trasferiamo virtualmente alla nostra scrivania. Certo. Quello che ha detto lei è perfetto. Meno male. Capita raramente. No, capita spesso che lei dica delle cose molto giuste. E il concetto è proprio quello del sedentarismo. La postura è una conseguenza purtroppo negativa, una postura errata, purtroppo è una conseguenza negativa del sedentarismo. Noi siamo una società seduta alla scrivania sostanzialmente, soprattutto le persone che vivono nelle grandi città. Ognuno di noi deve passare molte ore al giorno fermo davanti a un computer di solito, e c'è pure adesso il vincolo rispetto a alcuni anni fa di un monitor che devi guardare, quindi ci si sposta proprio. Questa è la fregatura, perché questa cosa è antifisiologica e dà una conseguenza negativa, che è una rigidità articolare e una rigidità dei muscoli. E questa è la cosa che dà più fastidio. Noi alla fine della giornata ci sentiamo stanchi, ci sentiamo dolenti, perché i muscoli, che sono degli strumenti eccellenti per contrarsi, cioè per accorciarsi, tendono, quando si è immobilizzati, quando si sta così tanto fermi, ad accorciarsi il più possibile e quindi a contrarsi. È una cosa fisiologica per il muscolo cercare di accorciarsi. Se io mi muovo, questo non accade perché continuo ad allungarlo, accorciarlo. Se sto fermo, ad esempio i muscoli posteriori della coscia, proviamo a immaginare, non possono che accorciarsi. Quindi quando mi alzo li sento molto rigidi. E anche un po' doloranti. E anche doloranti, per forza, perché sono contratti. Un muscolo contratto è anche dolente. Allora, proviamo a fare una specie di radiografia della posizione dell'impiegato e del lavoratore di Concetti. Esatto. Inizierei dalla testa. Esatto. Io, proprio perché sono vincolato da una visione, che è quella del monitor sostanzialmente, perché non ho da parlare con qualcuno, devo stare molto attento alla postura del collo. Il consiglio è di avere il monitor esattamente di fronte e non angolato rispetto al mio campo visivo. Sì. Di avere gli occhi esattamente all'orizzontale con il monitor per quanto possibile, cioè per fare in modo che io non abbia la testa o alzata verso l'alto o piegata verso il basso, quindi che sia in orizzontale rispetto alla mia visione. Mm. Quindi già questa condizione mette il collo in una posizione neutra, che è la meno viziata possibile. Ma la cosa da fare, quando ho ottenuto anche queste condizioni, diciamo, ottimali di postazione di lavoro, cosa non sempre facile da ottenere, sì, è quella periodicamente di muovere il collo. Quindi io consiglierei ogni ora e mezza, di fare comunque delle mobilizzazioni del collo. Cosa significa? Piegarsi verso l'avanti, portare il collo verso l'indietro, guardare i vicini, i nostri compagni di lavoro che sono a destra e a sinistra, quindi fare delle rotazioni lente, ma fino ad arrivare alla fine dell'estremità dell'articolazione, cioè piegare il più possibile in avanti, indietro e lateralmente. Ad esempio, piegando già il collo indietro, sto provando, sì, a fare questo esercizio. Sì, che succede? A me fa un po' malino. Certo, ovvio. Perché sto seduta male. È perché sta seduta male e sicuramente perché ha una contrattura muscolare posteriore. Allora, questo dolorino non deve limitarci, facciamolo lo stesso, perché progressivamente la muscolatura si abitua a questi gesti e quindi questo consente poi di stare meglio. Quindi questo da fare per il collo. Andiamo alla schiena. Passiamo alle spalle e alla schiena. Mi dimenticavo delle spalle. Ecco, quando io sono seduto a un computer ho sempre le braccia verso l'avanti e tendenzialmente la spalla un po' ruotata verso l'avanti, per forza, perché devo raggiungere il mouse piuttosto che la tastiera. Sì. Allora, anche in questo caso la muscolatura posteriore viene contratta, si contrae, perché è sempre in tensione, quindi il muscolo trapezio, che è la parte tra le spalle e il collo sostanzialmente, e dietro, tra le scapole, spesso le mie pazienti si lamentano di un dolore in mezzo alle scapole, sì, in mezzo alla schiena. Anche in questo caso l'ideale è portare indietro le spalle ogni tanto, abbandonare la tastiera e il mouse, anche questo si può fare per 3 o 4 minuti, portare indietro le spalle e provare ad avvicinare le scapole tra di loro. Questo rilassa la muscolatura anteriore e fa in modo che la muscolatura posteriore non sia soltanto stirata, ma sia anche contratta, si contragga e quindi faccia stare un po' meglio la parte posteriore della schiena. È vero. Provato? Sì, ho provato. Funziona, no? Sì, funziona, sì, adesso tra il collo. Ecco, adesso manca la parte inferiore, che sono le gambe. È ovvio che ci sia una ritenzione idrica, soprattutto se uno sta molto fermo. Avere i piedi in basso e seduti è un vincolo pazzesco. Se poi c'è anche un abbigliamento aderente, piuttosto che una sedia scomoda che taglia la coscia o cose del genere, non può che alla fine della giornata trovarsi con le gambe un po' più gonfie una persona. Sì. Per migliorare questo, al di là dei... Ma eccomi, scusi, ma le gambe le teniamo, spesso noi le teniamo accavallate, sì, sì, addirittura intrecciate a, certo, volte, no? Certo, ecco, questo fa male o fa bene? Fa male. Assolutamente. Assolutamente. E noi purtroppo siamo abituati a fare così. Sì. Allora, che fare per svincolarci da questa cosa qua? Alzarci in piedi. Anche questo io continuo a ribadirlo a tutte le persone che visito. Bisogna periodicamente alzarsi, fare 2 giri intorno alla scrivania, ci vogliono 2 secondi sostanzialmente, e poi ritornare a sedersi. Questo favorisce l'effetto pompa che c'è dagli arti inferiori, nelle vene, per sgonfiare un po' anche gli arti. E veramente basta 2 o 3 giri intorno alla scrivania durante la giornata, più volte durante la giornata naturalmente. Quindi cercare, imporsi, si può mettere anche in agenda, alzati e fa un giro, e è una cosa che è molto funzionale. Questo anche dal punto di vista della muscolatura, il fatto solo di mettermi in piedi, la muscolatura posteriore della coscia si deve allungare un pochino e quindi evitiamo a fine giornata quelle contratture così fastidiose, così più che altro appunto fastidiose, neanche forse dolorose, ma che danno quella sensazione di pesantezza agli arti inferiori. Ci sarà da lavorare e anche da muoverci, pur stando di fronte alla scrivania. Siamo degli esseri dinamici, purtroppo la nostra società ci impone di essere statici, ma il nostro organismo non è mica d'accordo. Ma noi ci ribelleremo e allora seguiremo i suoi consigli e poi le faremo sapere. Già il collo, che adesso ha fatto questi giri, mi sembra che sia tornato, no, che stia meglio. Meno male. Dottor Respizzi, la ringrazio. Piacere, buona giornata. Come solito, arrivederla. Come detto dal dottor Respizzi, non siamo fatti per stare fermi. E se pensate che il problema sia il tempo che ci manca, vi consiglio allora il libro dal titolo Yoga per l'ufficio di Edward Vilgar, Corbaccio editore. Allora, insieme ne ascoltiamo un breve estratto, un piccolo esercizio che ci aiuta a recuperare la vitalità. Alzate le braccia, palmi aperti e dita distese. Fate un'ispirazione bella ampia. Mantenetevi in questa posizione visualizzando un successo nel lavoro. Ad esempio, se siete venditori, una grossa vendita, oppure se siete calciatori, il momento del gol. Poi, espirando, unite le mani e intrecciate le dita, non troppo strette, fino a incontrarsi in alto a campanile per condurre l'energia ancora più su. Assaporate qualche respiro in questa posizione, allungandovi verso l'alto, ma allo stesso tempo lasciando cadere le spalle all'indietro, a rilassarsi e a sciogliersi ben lontane dalle orecchie. Espirate, con le mani sempre in questa posizione, inclinatevi da un lato e fermatevi così per quanti cicli respiratori volete. Mentre vi allungate da un lato, cercate di far ricadere il peso del busto sul gluteo del lato opposto. Restare ben ancorati alla sedia vi farà allungare davvero tutta la parte laterale del tronco. Poi inspirate e tornate al centro, sempre ben eretti. Ripetete dall'altra parte, poi di nuovo da quella opposta, cambiando lato per alcune volte. Per finire, sciogliete le dita mantenendo ancora le braccia distese con le mani aperte e allungatevi verso l'alto per svariati cicli respiratori. Godetevi la sensazione di apertura del centro del cuore mentre vi distendete verso l'alto. Le scapole scorrono in scioltezza sulla schiena, festeggiando l'innalzamento del torace verso il cielo. Espirate e abbassate le mani, rinfrancati e pronti a tornare al lavoro che avete in corso. E per oggi è davvero tutto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone.